Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte. Sono Caterina del coordinamento Lesbiche Romane. Qui stasera con me c'è Rosina. My love. Rosina, alla quale passo subito la linea per leggervi un nostro comunicato. The quiet sound of waves on sand. Quindi auguriamo a tutte buon ascolto. Ciao, buonasera a tutte. Sicuramente tutte sapranno della bella notizia che ci è arrivata da queste ultime elezioni. In genere non è stata un buonissimo risultato, ma ci compiacciamo comunque della elezione di Titti Di Simone, proprio la presidente ovviamente di Arci Lesbica. Proprio a questo proposito vi vogliamo dare lettura di una mail ricevuta da Maria Cristina Gramolini. Ve la leggiamo integralmente così come ci è pervenuta. Care compagne, Titti De Simone è stata eletta in Parlamento nel gruppo di Rifondazione Comunista alla Camera dei Deputati, prima lesbica dichiarata e militante nella storia della Repubblica. La sua elezione ci riempie di orgoglio e di gioia nonostante entri nel Parlamento nero della vittoria di Berlusconi. Molte pensano che sia impossibile dichiarare pubblicamente il proprio lesbismo. L'elezione di Titti De Simone dimostra invece che non è così, che il lesbismo non rende vulnerabili né ricattabili se noi non lo permettiamo. La sua presenza è per tutte le lesbiche, per tutti i gay, per tutte le minoranze e per tutti i soggetti senza potere una garanzia di essere rappresentati e difesi. Siamo quindi felici che faccia parte di Rifondazione Comunista, il partito che incarna la lotta alla tendenza alla guerra, la difesa dei diritti delle persone contro quelli del mercato, l'autodeterminazione delle donne, il diritto all'orientamento sessuale, la laicità dello Stato. Pensiamo che l'elezione di Titti De Simone dimostri anche il valore di Arci Lesbica, l'associazione che Titti ha fondato e diretto e che ha portato il lesbismo sul piano politico nazionale fino a questo straordinario riconoscimento. Arci Lesbica ha portato le lesbiche italiane fuori dalla marginalità, fuori dall'ombra e dalla paura, fuori dalla finta politica. Arci Lesbica ha indicato e indica alle donne omosessuali la possibilità di essere libere e protagoniste. Per questo rinnoviamo a tutte l'invito ad aderire a questa associazione, a fare una scelta di lungo periodo perché il movimento lesbico non sia una compagnia di amiche ma un soggetto collettivo di trasformazione concreta. Firmato Maria Cristina Gramolini. Bella, vero? Ci sentiamo di essere d'accordo su gran parte di questa mail, ma l'ultimo capoverso, come dire, non ci trova pienamente in sintonia. E proprio per questo abbiamo ritenuto come CLR che fosse necessario rispondere a Cristina Gramolini in merito a questa questione. La nostra risposta, la lettera di risposta che il coordinamento Lesbiche Romane ha scritto, l'abbiamo intitolata così: senza storia e senza memoria, e vi leggiamo anche questa. Senza nulla togliere a Titti De Simone e a Rifondazione Comunista, che l'ha candidata e ha anche deciso, grazie alle opzioni, di portarla in Parlamento insieme ad Elettra Deiana, ci sembra francamente esagerata la geografia che Maria Cristina Gramolini fa di Titti, limitando la storia di Arci Lesbica all'azione di una sola, seppur generosa lesbica, che ne è la fondatrice, ideatrice, motore propulsivo e quant'altro possibile. Siamo liete della sua elezione e sappiamo che Titti si spenderà nel lavoro parlamentare a difesa di tutte le minoranze e per tutti i soggetti senza potere. Alla Gramolini, invece, diciamo che forse, presa dall'enfasi di un fatto storico, l'elezione della prima deputata che si dichiara lesbica, ha esagerato nell'annullare tutto ciò che è stato prodotto prima di Titti e che a Titti ha consentito di potersi dichiarare lesbica. Speriamo che questa modalità venga ai noi. Scusate, pensiamo che questa modalità, ai noi, venga mutuata dal modello culturale dominante in politica, che tende ad azzerare la pluralità e la ricchezza delle diverse esperienze per concentrare tutto intorno ad un premier riferimento unico al quale aderire e al quale tutto si deve. Consce del ruolo del separatismo che tanta parte ha avuto e continua ad avere nella costruzione e nella storia del movimento lesbico e femminista, salutiamo Titti, sicure dell'impegno reciproco e del rispetto delle differenze. Coordinamento Lesbiche Romane. The whirring sounds of bees in a comb, the rushing sound of Ed ora ascoltiamoci insieme un brano di Mariella Nava dal titolo Il nodo, la gabbia e il seme. Non è più il tempo, no. Se tira un altro vento che fa sentire, che fa capire, cambia gioco, non è più il tempo, no. Ma non è più il modo, slega in fretta il cappio, sciogli quel nodo. If ever you should go. E continuiamo la nostra trasmissione attingendo a quella che per noi è una fonte inesauribile di notizie, che è la bollettina del CLI. E vi diamo appunto qualche notizia e qualche appuntamento che potrà risultare utile. Intanto voglio dire che vi ringrazio per i trillini che sono già arrivati, è una cosa molto graziosa questo vostro partecipare alle nostre trasmissioni, siamo molto contente. La canzone che è appena andata verrà ripetuta, come richiesto da voi, nel nostro quarto d'ora dopo la sigla finale. Allora, questa è la prima notizia che vi mandiamo oggi. L'associazione Desiderande di Bari organizza anche quest'anno la vacanza lesbica, vacanze in masseria, in Puglia dal 19 al 26 agosto, alla masseria Oasi di San Giovanni a Montalbano Torre Canne, Brindisi. La masseria, restaurata in modo ammirevole e dotata di tutti i comforts, dista solo 4 km dal mare. Può ospitare 70 donne in stanze da 6-8 letti. La vacanza in barca a vela, come l'anno scorso, intorno alle isole di Dragonera con skipper donne, con 6 e 8 partecipanti, potrà essere prenotata per la settimana dal 28 luglio al 4 agosto, oppure 4 agosto all'11 agosto, oppure dall'11 agosto al 18. Dunque, per le informazioni per la barca a vela potete telefonare allo 0347 660 7711, oppure l'email andarpermare@libero.it. Per quanto riguarda invece le informazioni per la masseria, telefonate allo 0368 3777 7784 dalle 19 alle 22, e l'email è desiderande, che si scrive desiderandae, @hotmail.com. The happy sound of water on stone, the quiet sound of waves on sand, when you my heart makes natural sounds. E ad Agape, o Agape, in provincia di Torino, a 1600 metri, udite udite, dal 27 luglio al 4 agosto del 2001, si terrà un campo donne presso il centro ecumenico. E ci vuole passione e tanta pazienza, così si chiama il centro ecumenico di Agape. Il campo si rivolge a chi condivide questa consapevolezza con le donne che lo organizzano. Le relazioni tra donne sono essenziali per stare al mondo con forza, con desiderio, creatività ed immaginazione. Così leggiamo dal comunicato delle organizzatrici: possediamo un patrimonio di esperienze che non sempre riusciamo a spendere perché non elaborato in un sapere simbolico comune. Concediamoci allora una settimana per dare ordine, parola e senso a ciò che stiamo imparando le une dalle altre. Le relatrici, vi ricordiamo, saranno Luisa Muraro, Daniela Di Carlo, Monica Benedetti, la Libreria delle Donne di Bologna. E ci saranno laboratori di cha-cha-cha, creta, contact, musicoterapia, acquerello e chi più ne ha più ne metta. Per informazioni potete telefonare allo 0121 807514, oppure contattare le organizzatrici via email all'indirizzo agape@perosa.alpcom.it. My heart. Ed ora alcuni appuntamenti per un ciclo di incontri presso la Facoltà di Lettere dell'Università La Sapienza, Dipartimento di Filologia Romanza, Piazzale Aldo Moro 5, Roma. Dunque il 28 maggio, cioè praticamente è già passato, lo Spazio della Differenza, mentre invece il 4 giugno 2001, Sui Generis, dei testi di Teresa De Lauretis, poi Sui Generis e soggetti eccentrici, il 25 giugno 2001, Verso un nuovo ordine simbolico, di Otima, La Sapienza del partire da sé, Allora, oltre a Diotima, La Sapienza del partire da sé, avremo anche Adriana Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti, e Filosofia della narrazione, e poi ancora Lia Cigarini con La politica del desiderio. E discuteranno di tutte queste opere Katrin Tamara, Tenenbaum, Stefania Ghirardello, Valentina De Propris. E vi ricordiamo che il seminario si terrà appunto presso l'aula seminari del Dipartimento di Studi Romanzi. Per informazioni potete contattare lo 06 49 91 3298. Mentre Caterina recupera la voce perché gli ha preso un attacco mortale di tosse, continuiamo con le nostre informazioni. Dunque, e continua, imperterrita. Allora, il Festival Internazionale di Cinema Gay Lesbico di Torino sarà a Milano al Cinema Pasquirolo. Ma questa è una notizia che vi daremo con più eloquenza di particolari più tardi. Intanto vi diamo semplicemente una di quelle notizie così un po' ludiche e vi informiamo che ogni venerdì sera a Roma, in via della Sirte 5, presso il Jolly Care, il nuovo Jolly Care, ci sarà la disco solo per donne. Bene, scusate ancora, succede anche ai comuni mortali, un attacco di tosse improvviso, abbiate pazienza, chiedo scusa. Bene, proseguiamo la nostra trasmissione facendo finta di niente, vi prego, con un contributo che ci ha mandato la nostra compagna Deborah, che si intitola Gli omofobici Sims. Allora, pur bazzicando i computer da più di 20 anni, non sono mai stata un'appassionata di videogiochi, nemmeno quando avevo 12 anni e cominciarono a circolare i primi home computer, gli ormai indimenticati Commodore 21, 64 e 20. Ho sempre pensato che fossero diseducativi e che rendessero i fruitori passivi rispetto a quanto avveniva sullo schermo. La maggioranza dei videogiochi fin dall'inizio richiedeva principalmente come unica capacità l'essere veloci nell'uso della tastiera, poi sostituita dal mouse. Pur con le ovvie evoluzioni, la situazione al giorno d'oggi non è molto cambiata e soprattutto il grado di violenza nel giocare è addirittura aumentato, poiché il 90% dei giochi consiste, ora come allora, nello sparare, distruggere o picchiare, e con l'evoluzione della grafica ciò si realizza con sempre più realistica dovizia di particolari. Vi sono state però sempre delle eccezioni che a quel tempo venivano chiamate adventures oppure avventure. Questo tipo di giochi consisteva nel portare a termine un'avventura che poteva essere sì di guerra, ma anche di semplice scoperta di un tesoro, di liberazione di ostaggi o di altri obiettivi meno cruenti e di significato sociale più costruttivo. Il gioco si svolgeva nel capire quali domande porre al computer e nell'interpretarne correttamente le ambigue risposte. In questo modo vi era una vera interazione tra il computer e chi lo utilizzava e si riusciva a sfruttare il proprio ingegno nonché ad imparare, ad esempio, usanze e posizioni geografiche di luoghi impensabili che in altro modo sarebbero rimaste sconosciute ai più. Al giorno d'oggi, i giochi che hanno mutuato questi aspetti positivi, ovvero l'assenza di stimoli alla violenza e la necessità di mettere a frutto le proprie capacità intellettuali, sono ben pochi, e tra questi credevo si potesse annoverare SimCity e la sua evoluzione The Sims. Come ho detto, non ho mai utilizzato massivamente il computer per i videogiochi e soprattutto mai come ora mi manca il tempo per distrazioni di questo tipo. Comunque, la mia compagna, per alleviare il particolare periodo di stress che sto vivendo, ma condividendo la mia piena condanna per i videogiochi cruenti, ha pensato di regalarmi The Sims. Entrambe non abbiamo pensato che per perpetrare la cultura omofobica dominante viene utilizzato qualsiasi mezzo di comunicazione, videogiochi compresi. Il gioco consiste nell'organizzare la vita di nuclei familiari creati dal computer o dal giocatore o giocatrice. L'organizzazione da impostare è a 360 gradi. Costruire ed arredare una casa per stabilirvi personaggi scelti, cercare per loro un lavoro, impostare delle relazioni amicali, provvedere alla cucina, alle pulizie e a tutto quello che riguarda la vita quotidiana, divertimenti compresi. I personaggi effettuano anche delle azioni autonome, ovvero non impostate dal giocatore o giocatrice, ed interagiscono con chi gioca mostrando la loro approvazione o disapprovazione per le scelte fatte, facendo richieste dirette per migliorare la loro condizione. Un po' per mancanza di tempo, un po' per scelta, per me utilizzare il computer passivamente non ha senso. Non leggo mai le istruzioni di un programma prima di utilizzarlo e quindi non ho letto nemmeno le istruzioni del gioco. Ovviamente il nucleo familiare che ho creato era costituito da due ragazze e quando ho arredato la casa che avevo costruito per loro ho scelto un bel letto matrimoniale. L'unico nucleo familiare con il quale mi andava di giocare era quello formato da due lesbiche. Immaginate la mia sorpresa quando, venuta l'ora di mettere a dormire le ragazze, la seconda ha rifiutato di condividere il letto con la prima. Ho insistito, ma lei ha preferito andare a dormire sul divano. Allora ho letto sommariamente le istruzioni del gioco e tra i suggerimenti relativi alla condivisione dei letti si veniva informati che bisognava impostare delle ottime relazioni amicali prima di chiedere a due personaggi di condividere lo stesso letto. Ho quindi iniziato ad intensificare le relazioni tra le due ragazze, facendole parlare, divertire insieme a più riprese. Quando il punteggio che misura la relazione tra i due personaggi ha iniziato a sfiorare il massimo, ho ripetuto il tentativo di mettere a dormire le due ragazze nello stesso letto. Niente da fare. Ho quindi sostituito il letto matrimoniale con due letti singoli messi l'uno accanto all'altro. Tutto a posto. La preclusione era proprio condividere lo stesso letto a due piazze. Poi ho pensato no, qui c'è proprio qualcosa che non va. Ho ripreso le istruzioni e le ho lette meglio. Immaginate l'amara sorpresa quando ho letto una piccola regola che diceva testualmente: ovviamente due persone adulte dello stesso sesso non potranno mai condividere un letto matrimoniale. Due persone adulte, quindi un uomo e una bambina o un bambino possono dormire insieme, ma due donne adulte no. In barba al proliferare della pedofilia. Non solo i personaggi del gioco esprimono i loro desideri tramite vignette che contengono disegni esplicativi e, come succede nella vita di tutti i giorni, oltre ad avere bisogno di semplici relazioni amicali, hanno anche voglia di fare l'amore. Immaginate la mia frustrazione quando le due ragazze, che nella mia immaginazione non potevano altro che essere lesbiche, hanno cominciato a far apparire vignette in cui richiedevano l'amore mostrandosi teneramente abbracciate a un bel maschio con tanto di baffi. Nonostante sia ben consapevole della cultura omofobica dominante, vederla riprodotta anche in un videogioco mi ha veramente frustrato, nonostante negli anni abbia avuto modo di costruire le mie difese basate su una pratica politica di consapevolezza e quindi di lotta. Ma non tutte le situazioni sono uguali e il mio pensiero va, ad esempio, ad una povera adolescente che tenta di approcciare il proprio lesbismo e si trova in preda ai Sims, ovvero alla costruzione di una vita virtuale che non solo non prevede il lesbismo, ma che addirittura lo vieta espressamente. Intanto i miei Sims riposano in pace per sempre perché, come direbbe anche un'attrice di un film di quarta categoria, se queste sono le regole del gioco, io non ci sto. Quella che state ascoltando, l'avrete riconosciuta, è Madonna con il brano Don't Tell Me, che tradotto maccheronicamente, soprattutto dopo aver ascoltato il brano sui Sims, si potrebbe dire ma non mi dire. Don't you ever tell me to stop. E continuiamo con ancora un po' di notizie. Questa è stata tratta dal giornale Liberazione del 18 maggio. Padova, chiesa aperta ai gay. Chiese aperte ai gay con il benestare della diocesi di Padova. Sono una cinquantina i gay di tutto il Veneto che si sono riuniti in un gruppo di preghiera che si ritrova ogni domenica per pregare e discutere sotto la guida spirituale di un parroco. La chiesa mantiene il più stretto riservo sull'identità del sacerdote che si è assunto l'incarico. La diocesi non vuole pubblicità, parla di percorso spirituale al quale garantire l'anonimato per la tranquillità di tutti i soggetti coinvolti. Si tratta di singoli o di coppie gay accolte in base al principio che essere omosessuali non è un peccato e la propria sessualità, di qualunque tipo essa sia, non è causa di esclusione dalle comunità cattoliche. Io non riesco a capire se il giornalista di Liberazione o il giornalista del telegiornale ha sbagliato qualcosa, perché Liberazione dice che in base alla sessualità, cioè che la sessualità non è causa di esclusione dalla comunità cattolica, mentre invece la notizia riportata dal telegiornale diceva che il parroco di quella diocesi praticamente accettava i gay, l'omosessualità per lui non era un peccato, ma i comportamenti omosessuali sì. Provate ad immaginare che cos'è un comportamento omosessuale. Un'altra forma di intolleranza, a Verona, aggressione anti-gay. E infatti c'è nel mirino di alcune persone, sembra già individuate come appartenenti a Forza Nuova, è finito un banchetto dell'arcigay che è stato oggetto di una vera e propria aggressione. Proprio a Verona si svolgerà il prossimo 9 giugno la manifestazione nazionale in occasione della Giornata Mondiale dell'Orgoglio Gay. Per informazioni e adesioni www.gay.it/pinkverona. E proprio a Verona si terrà, diciamo, la manifestazione del Lesbian and Gay Pride. Vi vogliamo a questo proposito leggere un articolo uscito sul manifesto il 19 maggio scorso, quindi il giorno successivo alla presentazione della marcia dell'orgoglio gay, lesbico, transgender. Dopo il Vaticano, annuncia il giornalista Vito Chiummo, questa volta la sfida è diretta al laboratorio delle destre. Ve lo leggiamo. Quelli del Circolo Pink di Verona, primi firmatari del comitato promotore che lancia lo scandaloso appello per un gay pride nazionale, niente meno che nella città veneta, da tempo hanno un sogno. Un bel viaggio in crociera con allegata gigantografia souvenir pubblicata sull'omofobo quotidiano locale L'Arena, il tutto finanziato grazie alle molte cause perse in tribunale dai vari razzisti locali impegnati a vario modo ad insultare i concittadini froci. Insomma, fanno buon viso a cattivo gioco perché Verona non è San Francisco, piuttosto è Alabama, e viverci non è facile se non sei bianco, etero e ricco, se non hai nome giuridico, morale, economico. A parte le moltissime minacce del tenore l'Italia ha bisogno di bambini non di finocchi, firmato supremazia fascista, l'ultimo episodio, come prima ci ricordava Caterina, risale allo scorso 5 maggio, quando il presidente del circolo gay lesbico Gianni Zardini fu ferito al volto da una catena da alcuni militanti e dirigenti di Forza Nuova, proprio mentre volantinava in una piazza in vista del Gay Pride. Una manifestazione nazionale a Verona, universalmente nota come Città dell'Amore, vuol dire denunciare il perdurare di una palese discriminazione da parte del comune nei confronti di lesbiche, gay e transgender, si legge nel manifesto politico presentato ieri a Roma nella sede del Circolo Mario Mieli. La discriminazione si prosegue, nasce da un clima di intolleranza e da una città da sempre laboratorio delle destre, in cui i nazischin, integralisti cattolici, Forza Nuova, sono strettamente legati ai partiti di governo degli enti locali, e cioè agli stessi che da pochi giorni, e io apro una parentesi, bontà loro, governano anche l'intero paese, quindi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord. L'obiettivo della manifestazione nazionale prevista per sabato 9 giugno è di costruire una resistenza che parta dalla valorizzazione delle diverse identità e culture, dando a ciascuna piena cittadinanza, dare cioè piena cittadinanza a tutte le persone, a prescindere dall'orientamento sessuale, di identità di genere, di cultura e di etnia. Dunque, la giornata del 9 giugno comincerà al mattino con una conferenza presso la Facoltà di Lingue dell'Università, mentre la marcia è prevista per le ore 14 con concentramento alla stazione di Porta Vescovo e arrivo nella piazza Bra. Gli organizzatori dell'evento sono già ovviamente in piena attività. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Circolo Pink di Verona. Vi ricordiamo nuovamente l'indirizzo: pinkverona@tiscalinet.it oppure www.mariomieli.org/pinkverona. Il telefono, che è anche un fax, 045 80 65 911. Per aderire alla manifestazione è possibile contattare i seguenti indirizzi, vi leggiamo anche questi: adesionipink@tiscalinet.it, adesionichiocciolaurano.it, porcospino@ecn.org. E intanto vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa, all'interno del martedì femminista autogestito. Potete contattarci qui in radio al 49 17 50 oppure telefonando il mercoledì dalle 21 in poi allo 06 68 64 201, che è un telefono fax con segreteria telefonica. Il nostro indirizzo di posta elettronica, la nostra email è questa: clrbp@hotmail.com. Aspettiamo vostre notizie e aspettiamo anche i vostri trillini per farci sapere che siete in ascolto. E sull'onda del dilagante perbenismo, forse semplicemente un assaggio di quello che ci aspetta in futuro, continuiamo con la lettura di un pezzo tratto da Liberazione del 20 maggio dello scorso, quindi di pochissimi, della settimana scorsa. Il pezzo si intitola Discriminazione a Bologna, dirigente scolastico trasferito perché gay. C'è razzismo e razzismo. E anche tra gli adulti non mancano episodi spiacevoli che la dicono lunga sul grado di educazione alla civiltà e alla tolleranza che aleggia nel paese. L'ultimo episodio gravissimo tratta di razzismo istituzionale. Si è verificato nelle scuole medie Farini di Bologna e come vittima un dirigente scolastico trasferito dal suo posto di lavoro perché sospettato di essere gay. L'episodio, secondo una nota diffusa dall'Arcigay, è stato candidamente autodenunciato da Orietta Cardasso, la direttrice delle scuole elementari Viscardi, comprensive dello stesso istituto Farini. Non solo, pare che la direttrice, ammettendo l'episodio, abbia accostato l'omosessualità alla pedofilia e abbia additato pubblicamente il funzionario, colpevole addirittura di essere portatore di un comportamento criminoso. Ma che mente illuminata questa donna! Chiediamo al provveditore agli studi di Bologna, sottolineano i responsabili dell'Arcigay in un comunicato diffuso subito dopo l'accaduto, di avviare immediatamente una ispezione alle scuole Farini e Viscardi. Se dovesse essere confermato quanto dichiarato dalla direttrice Cardasso, quella donna non potrebbe rimanere un minuto di più al suo posto. Il suo comportamento non solo costituisce reato, ma rappresenta un atto altamente diseducativo nei confronti degli alunni dell'istituto da lei diretto. E pare che la storia non finirà in una bolla di sapone. Arcigay adirà anche per le vie legali contro la Cardasso. Siamo disposti, continuano, ad arrivare anche alla Corte Europea dei Diritti Umani per avere ragione di una vicenda squallida e razzista, indegna della scuola italiana e di una città civile come Bologna. Beh, noi qui in Italia non è che stiamo tanto bene, ma sentite che cosa succede all'estero, in Namibia. Il presidente della Namibia, Sam Nujoma, ha chiesto alla polizia di arrestare e deportare i gay e le lesbiche, sostenendo che la costituzione del paese non autorizza i comportamenti omosessuali. La Repubblica di Namibia non autorizza l'omosessualità e il lesbismo qui. La polizia ha ricevuto l'ordine di arrestare e deportare gli omosessuali, ha detto Nujoma agli studenti, durante un discorso pronunciato all'Università della Namibia e riportato dalla televisione. Le affermazioni di Nujoma hanno provocato la reazione della Società Nazionale per i Diritti Umani in Namibia, che ha affermato che quelle del presidente sono parole che, venendo da un dirigente popolare, potrebbero dare origine a violenza contro cittadini innocenti. E dai, finiamo questa trasmissione di oggi con una bella notizia: finalmente i gay possono donare il sangue e chi non lo donava va bene. Dunque, leggiamo testualmente: dopo un decennio di inutile discriminazione, le persone omosessuali potranno tornare a donare il sangue. La solidarietà è sempre stata per la comunità gay e lesbica un modello di vita e quindi un valore trainante. Da oggi potremo adempiere con orgoglio al nostro dovere di cittadini grazie al ministro Veronesi. E questa era l'ultima notizia di oggi. My heart would make natural sounds with you, my love. Il tempo a nostra disposizione sta quasi per finire, ma è quasi una finta, non ve ne andate, perché noi dopo 45 minuti mandiamo la nostra sigla, ma in realtà stiamo con voi un'ora. È soltanto per permettere a tutte coloro che hanno voglia di registrare le nostre trasmissioni di poter usare una cassetta da 90 e anche per permettere a noi di andare in replica la settimana successiva. Quindi non ve ne andate, anche se sentite la sigla finale della nostra trasmissione, staremo ancora un quarto d'ora insieme. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.